mora se me va, la rosa se me va, la bionda se me va, se balla il cha-cha-cha. Ma mi piace soprattutto la donna un po' focosa, erbosa e perché no, un po' formosa. L'amora se ne va, la rossa se ne va, la bionda se ne va, non ballo il cha-cha-cha. Non ho colpa se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa. La donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa.